Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Torniamo allo IEO questa sera, l'Istituto Europeo di Oncologia, per parlare di chirurgia robotica. 10 anni fa lo IEO è stato uno dei primi centri al mondo in cui si è iniziato a praticare la chirurgia robotica in campo oncologico. E da allora, dal 2006, allo IEO sono stati compiuti oltre 7200 interventi in chirurgia robotica. Allo stato attuale sono circa 1000 gli interventi chirurgici che ogni anno vengono effettuati con, appunto, l'ausilio del robot, e c'è anche un forte trend a crescere, più o meno il 25% all'anno. Insomma, lo IEO è oggi in condizione di fare un bilancio dei costi e dei benefici della chirurgia robotica e anche di così intravedere i prossimi sviluppi di questa disciplina. Ne parliamo con Roberto Orecchia, che è direttore scientifico dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Buonasera Orecchia. Buonasera Melis. Allora, senta, intanto diciamo, descriviamo un po' che cos'è un robot chirurgico oggi. Tra l'altro in realtà ce n'è uno solo, o quasi, nel mondo, anche se probabilmente nei prossimi anni ne arriveranno diversi. Sì, attualmente le macchine sono nella maggior parte riferibili al sistema Da Vinci. Rispetto alla chirurgia tradizionale, l'elemento è la distanza fra il chirurgo e il campo operatorio. Questa distanza è colmata da questa apparecchiatura che viene gestita dal chirurgo mediante una console sul quale esiste un monitor. È un po' come un videogioco, eh? Assolutamente, sì, una specie di videogioco. Il chirurgo, che naturalmente è il gestore comunque totale dell'apparecchio, comanda il movimento di bracci robotici. Che sono piccolini, no? Di solito, e vengono infilati, non so, nell'addome, nel torace, dove serve, passando da dei buchini molto piccoli, no? Sono 3-4 bracci robotici, quindi l'ambito è quello della cosiddetta chirurgia mini-invasiva. Perfetto. E all'apice di questi bracci robotici vengono inseriti i vari ferri chirurgici, le pinze, le forbici, i dissettori, cioè tutto quello che consente al chirurgo di operare. Ecco, senta, quali sono i benefici che offre la chirurgia robotica? Cioè, che cosa cambia se io opero con la chirurgia robotica? Beh, anzitutto l'accesso è più semplice, meno invasivo, come dicevamo. Questo si riflette normalmente in un accorciamento che a volte è molto significativo, anche un dimezzamento dei tempi di degenza del paziente, ma questo non è l'unico aspetto. L'aspetto, diciamo, più interessante dal punto di vista operativo e tecnico è che la visione che il chirurgo ha è una visione tridimensionale sulla quale si può agire anche amplificando l'immagine, e quindi avere una chirurgia di dettaglio più precisa rispetto a quello che è il campo aperto tradizionalmente usato dalla chirurgia. Senta, abbiamo parlato dei benefici della chirurgia robotica, veniamo a questo punto a uno dei temi cruciali, cioè il rapporto di questi benefici con i costi. Oggi voi avete una casistica che qualche conclusione vi permette di trarla. Sì, abbiamo fatto delle valutazioni, ovviamente di tipo anche economico, non solo. Chiaramente l'aspetto principale è che nella chirurgia open non è necessario l'investimento nel sistema. Oggi è un investimento ancora piuttosto importante, siamo nell'ordine di circa 2 milioni di euro, sì, per acquisire un robot. Quindi questo costo che bisogna affrontare viene poi, come dire, ripagato a valle da, per esempio, una degenza più breve. Quali sono le vostre conclusioni? Ci sono dei risparmi, questo investimento ovviamente deve essere ammortato, si realizzano dei risparmi complessivi. Per esempio, basta pensare alla minor necessità di trasfusioni, e questo è sicuramente un risparmio, oltre che biologico, anche economico. Si accorciano in maniera considerevole i tempi di degenza e in alcune situazioni anche la percentuale di complicazioni può essere ridotta rispetto a quello che è una chirurgia più tradizionale. Ecco, quindi se ragioniamo in termini di costo sanitario, possiamo dire che forse, magari non in tutti i casi, ma chi riceve questo tipo di intervento chirurgico con l'ausilio del robot alla fine costa di meno al sistema sanitario? Penso, non so, a una persona che invece di avere un mese di malattia, di piegare un mese a riprendersi e tornare al lavoro, ci impiega 2 settimane. Beh, quelle 2 settimane sono comunque denari risparmiati. C'è questo problema di fare bene i conti? Il problema esiste, quello come dire, di far bene i conti e di uscire dal sistema tradizionale, che è quello di comparare il costo di una procedura A versus quello di una procedura B, cioè una chirurgia aperta verso una chirurgia robotica. Chiaramente la procedura di per sé, anche perché spesso è anche più lunga la seduta operatoria, è più costosa. Quella robotica, certo. Però bisogna cambiare il concetto e vedere qual è l'impatto complessivo del costo di quel tipo di cura. Se il paziente sta meno in ospedale, quindi è in grado di tornare ad esempio al lavoro prima, se si riduce il rischio delle complicazioni, questo evita anche come costo complessivo ad esempio il paziente farmaci di dover assumere vari terapie o di dover, diciamo così, spendere per altre problematiche. Va bene, grazie professora Orecchia, però andiamo avanti domani a parlare di chirurgia robotica, delle prospettive e dei benefici. Grazie a lei, molto volentieri. Appuntamento domani.